Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Ve lo ricordate il Dieselgate? È passato poco più di un anno da quando venne fuori lo scandalo delle centraline elettroniche Volkswagen truccate. In pratica ciò che accadeva era che la centralina elettronica di queste auto riconosceva quando l'auto si trovava in laboratorio dal fatto che solo le ruote anteriori, che erano poste sui rulli, giravano e a quel punto regolava la combustione in modo da ridurre al minimo le emissioni inquinanti, i cui livelli risultavano però così drasticamente inferiori a quelli effettivi dello stesso veicolo su strada. Ebbene, tuttavia, al di là del comportamento doloso di Volkswagen in quella circostanza, tutte le auto nelle condizioni standard di test hanno mostrato emissioni inferiori a quelle su strada. Colpa di una procedura di valutazione vecchia, nata quando le auto non avevano aria condizionata, non avevano ABS e non avevano centraline elettroniche. Ma da settembre scorso le regole sono cambiate, con un processo graduale che giungerà a pieno compimento nel 2019. Sono state introdotte anche le prove su strada. Ne parliamo con Giorgio Martini, vice capo unità dell'unità appunto di trasporto sostenibile del GRC, il centro di ricerca comune dell'Unione Europea, che è stato incaricato di mettere a punto le nuove procedure di test che ha ISPRA in Italia, una delle sue strutture più importanti. Buonasera Martini. Buonasera. Senta, allora, intanto quali erano i punti deboli del vecchio modo di fare i test e quindi che cosa cambierà con i nuovi test di laboratorio? Beh, diciamo che i test di laboratorio che sono utilizzati ancora oggi e ancora per poco nascono negli anni 70-80 e come lei ha già detto si tratta, sono test sviluppati per auto completamente diverse rispetto a quelle che abbiamo oggi. E il problema principale era sicuramente il ciclo di guida. Il ciclo di guida era stato sviluppato per quelle auto che erano molto meno performanti di quelle attuali ed era un ciclo di fatto costruito in laboratorio. Questo ciclo risulta abbastanza dolce, non ha forte accelerazione, non è molto dinamico e quindi è molto poco rappresentativo di come i veicoli vengono guidati in realtà su strada. Certo, quindi insomma diciamo che era una prova molto facile sostanzialmente, era come se chiedessero di saltare un'asta da un metro, salvo che poi bisognava saltarne due di metri, no? E quindi ecco, diciamo, i risultati naturalmente consentivano dei confronti tra un auto e un altro, ma non erano affatto realistici quanto alle emissioni effettive. Ecco, che cosa cambia quindi con il nuovo test di laboratorio, perché appunto i test in laboratorio non spariscono? No, i test di laboratorio rimangono perché ci assicurano la completa comparabilità tra modelli diversi o anche per esempio utilizzando combustibili diversi. Nel test di laboratorio che entrerà in vigore dal prossimo anno, quello che cambia è soprattutto il ciclo di guida. È un ciclo di guida che è stato sviluppato nell'ambito delle Nazioni Unite, raccogliendo dati su come guida la gente nel mondo reale e attraverso un processo statistico è stato creato un nuovo ciclo che è molto più dinamico rispetto al passato. Quindi ci sono accelerazioni molto più forti, velocità di punta più elevate, mantenute per tempi più lunghi e cose di questo genere, no? Esattamente. E poi arrivano i test su strada. Ecco qua, questi cosa misurano di diverso, come si svolgeranno e quando diventeranno vincolanti anche, le chiedo. Sì, ecco, innanzitutto torniamo per un secondo al test di laboratorio. Per quanto io possa farlo perfetto, non rappresenterà mai tutte le possibili condizioni che posso incontrare su strada. Il test su strada, che entrerà in vigore dal 2017 in modo vincolante, mira proprio a coprire tutte quelle condizioni di guida che non sono coperte dal test di laboratorio e in più, essendo assolutamente queste condizioni imprevedibili al costruttore, ci garantisce che non ci sia più nessuno che possa imbrogliare in certo. Futuro. Ecco, dicevamo, diventano vincolanti, però ci sono dal 2017, però c'è un processo graduale, vero? Perché sì, ci aspettiamo che questi due valori siano molto diversi all'inizio, quelli di laboratorio e quelli su strada. Sì, ci sono due step attualmente definiti nella normativa. Il primo che entrerà nel 2017 e fino al 2019 su strada sarà consentito emettere 2,1 volte ciò che invece è il limite che è applicabile in laboratorio. Dal 2019 questo limite scenderà a 1,5 sì. Volte ciò che è applicabile in laboratorio, ma c'è una clausola che prevede la revisione annuale di questo fattore di conformità con l'obiettivo di portarlo ad uno quanto prima possibile, soprattutto tenendo conto dello sviluppo e del miglioramento della strumentazione che viene utilizzata su strada. Va bene, allora grazie Giorgio Martini.